ho già smarrito un po' di me per mille volte, per ritrovarmi ancora qui come stanotte, né pioggia né neve né un perché, ma non mi muovo. Se il vento ascolta, sono qui, non cerco e trovo. La vita passa ancora qui, dove è già stata nuova. E se l'autunno cade in fiocchi di foglie, non c'è problema, non nuotiamo più. Si scalda il fuoco nei giorni. E se l'inferno lascia il sole ai ricordi, penso all'indietro quando c'eri anche tu. Al freddo quando non è sano, rinasce il fiore accanto a me ed io respiro. Quest'anno corre come se io fossi vero. Le mie stagioni vere sì, cambiando umore. Il mondo intanto cambia ma non fa rumore. La vita torna e sempre qui, stavolta salgo al volo.